Ok, questo pezzo dovrebbero conoscere un po' di persone, dura un minuto, quindi non puoi dirmi di non farlo. È dedicato a tutte le persone che si amano, a tutte le persone che non sono amate. Lo dedichiamo anche alla nostra amica Marina là in fondo, che mi ha chiesto, dedicami un pezzo. Chi vuole venire a ballare sul palco può farlo, chi non vuole venire viene lo stesso. Io non so l'amor cos'è per te, ma però io duro già ce l'ho. Prendimi lo scappellamo e fai che se stringi lo e se ti dico molla lo scappellamo di più. Prendimi lo scappellamo e fai che se stringi lo e se ti dico molla lo scappellamo di più. Io non so l'amor cos'è per te, ma però io duro già ce l'ho. Prendimi lo scappellamo e fai che se stringi lo e se ti dico molla lo scappellamo di più. Prendimi lo scappellamo e fai che se stringi lo e se ti dico molla lo scappellamo di più. Di più, di più, di più, di più, di più, di più, di più.